La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, alle 16.30 primi e 57 secondi, siamo in diretta quindi su di Milano. Oscar Giannino vi ringrazio e vi saluto per l'ascolto, come sempre in diretta in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per proporre temi, puntate, critiche, fare domande e ottenere risposte. Io tendo a rispondere a tutti. Il tema della puntata di oggi è, per così dire, un prodromo di Focus Economia, che naturalmente vi invito tutti ad ascoltare dopo la fine della versione di Oscar, perché facciamo una riflessione specifica dal nostro punto di vista delle considerazioni annuali svolte questa mattina dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Questa era la prima volta che l'appuntamento annuale non era in occasione dell'assemblea annuale. L'assemblea annuale è stata anticipata al 28 aprile dell'anno prossimo, sarà entro la fine di marzo, per omologare il calendario con le esigenze del sistema europeo delle banche centrali, che ha bisogno di raccogliere i dati dei bilanci delle banche centrali del sistema in tempo utile, quindi verrà anticipato dall'anno prossimo a marzo, ma le considerazioni generali sono rimaste ferme alla fine di maggio come tutti gli anni. E vi dico subito come la penso io, poi andremo ai nostri ospiti, e devo dire che io ero molto curioso di vedere quest'anno che considerazioni generali avrebbe svolto Ignazio Visco, perché sapete che da novembre, dalla risoluzione delle quattro banche, Marche, Etruria, Ferrara, Chieti, e dall'audizione parlamentare che dopo l'esplosione delle proteste un membro del direttore della Banca d'Italia, Barbagallo, tenne in Parlamento, noi abbiamo assistito a una serie di prese di posizione molto energiche della Banca d'Italia proprio in relazione alle nuove regole europee, cioè la cosiddetta BRRD, cioè la direttiva europea sulla recovery e la risoluzione delle banche, che è entrata in vigore dal 1 gennaio del 2016, sulla cui scorta sì e no è stata fatta la risoluzione a novembre di quelle quattro banche, che fece esplodere a quel punto la consapevolezza nei risparmiatori e investitori italiani, che prima non hanno avuto. Perché la mia opinione è che i regolatori per primo non hanno detto e non hanno obbligato le banche a informare i loro clienti della nuova scala di rischi di compartecipazione a eventuali fenomeni di liquidazione coatta delle banche, che era posta nelle nuove regole. Regole che erano state approvate con il voto anche italiano a metà nell'estate del 2013, per entrare in vigore all'inizio del 2016. Tante volte nelle trasmissioni vi ho proposto i documenti ufficiali della Consob, dell'ABI, in relazione a ciò che le banche dovevano fare secondo la nuova graduazione dei rischi delle obbligazioni subordinate, e che le banche non hanno fatto la profilazione del cliente, l'informativa ad hoc, la Consob che ha una serie di domande e risposte sul tema specifico delle subordinate, assumendo le linee dell'ESMA, cioè della rete delle Consob europee, diceva che quei prodotti andavano riservati ai clienti istituzionali e non al retail, essendo il nostro un sistema bancario che invece aveva a doppia cifra il funding attraverso obbligazioni come in nessun altro paese OCSE, perché invece che vendere agli istituzionali, che prezzano meglio il rischio, vendendolo al retail ci risparmiava soldini. Allora, devo dire che le attese mie personali non sono state deluse, nel senso che abbiamo avuto considerazioni del governatore Visco significativamente diverse da quelle degli anni precedenti. Sintesi estremissima. La parte dedicata all'economia nazionale in linea con quello che tradizionalmente pensa e afferma nel dibattito pubblico italiano la Banca d'Italia, e cioè un grande merito riconosciuto alla BCE, senza la quale in questi anni, malgrado fattori molto favorevoli come il prezzo del petrolio e così via, in realtà è grazie alla BCE e a Mario Draghi, alle sue politiche non ortodosse, ha ricordato il nostro governatore, che noi dobbiamo il più della mini crescita che abbiamo realizzato in questi anni, più 0,8% l'anno scorso e così via. Se non ci fosse la BCE saremmo ancora sul fondo, e su questo quindi ha aggiunto delle considerazioni sul fatto che bisogna assolutamente innalzare la crescita potenziale del nostro paese. Mi ha un po' deluso il fatto che il governatore, citando la necessità di investimenti soprattutto pubblici, non abbia svolto almeno un paio di paragrafi il punto del punto problema vero che è iniziato a metà degli anni 90, cioè la perdita di produttività della nostra economia, secondo me è il problema fondamentale insieme alla sostenibilità del debito pubblico e ai crediti deteriorati delle banche. Su quello non si è soffermato, ma insomma la parte relativa all'economia reale è molto realistica, secondo me, nel considerare che siamo ancora lontani dall'aver messo in moto ciò che serve per crescere verso il 2% annuo. La parte che riguarda il governo, e questo lo sentiremo meglio anche con uno dei due ospiti, è in buona sostanza una parte stringata ma molto favorevole a quello che il governo ha fatto. Non ci sono ombre di critiche da questo punto di vista, né per il meccanismo dei bonus, dei meccanismi a tempo, eccetera eccetera, e in buona sostanza anzi riconosce, non chiede tagli di spesa sulle imposte, non chiede tagli generalizzati, ma si sofferma sul cuneo fiscale e sull'IRAP, non fa cenno all'IRPEF, non chiede tagli di spesa, anzi dice che in realtà in termini reali la spesa sì, cresce ma a ritmi molto meno elevati del passato, e si capisce che il governatore insomma i tagli non ti fa per i tagli di spesa, ecco, detta proprio fuori dai denti. Terzo punto, quello delicatissimo invece delle banche, e lì sì, mi aspettavo esattamente quello che ho sentito, cioè una difesa a spada tratta della Banca d'Italia, una ricostruzione della vicenda bancaria in cui in sintesi le banche vanno per aria per colpa dell'inefficienza del mercato e per via della recessione. Cioè non si riconosce che c'è una parte fondamentale in quello che è avvenuto nel nostro paese, non sono le quattro banche risolte, ma Veneto Banca, Popolare di Vicenza, quelle 50 BCC che abbiamo scoperto da poco essere su 370 ma ridotte come capitale e così via, non c'è alcun riconoscimento che nel loro deterioramento un ruolo l'abbia giocato fondamentale la mala gestio, il credito relazionale a soci, amministratori e così via, l'autofinanziamento di patrimonio di vigilanza chiedendoli sottoscrivere azioni a valore di libro invece che di mercato per la sottoscrizione in cambio di mutui, prestiti eccetera eccetera, tutto quello che stiamo apprendendo solo grazie alle indagini penali, a dire la verità. Su questo il governatore ha detto che la vigilanza della Banca d'Italia fa il possibile, ha lamentato che le sue ispezioni però non hanno gli stessi poteri di quelli della magistratura, e poi ha tenuto a ricordare che comunque è tenuto alla riservatezza per non attentare alla stabilità del nostro sistema. E detto tutto questo, questa è un'autoassoluzione. A questa autoassoluzione ha fatto seguito un attacco lancia in resta, in linea con quello che la Banca d'Italia ci dice da ottobre e novembre, contro le nuove regole della Recovery and Resolution, le regole comuni della direttiva europea. Quindi è stato ribadito che non è stato dato il tempo per informare i clienti delle banche dei rischi che correvano. Continua a dire: la direttiva è stata approvata a metà 2013 e ci sono i documenti ufficiali che dicono che bisognava procedere diversamente. Il problema era che per le banche italiane il funding delle obbligazioni era troppo gustoso per farne a meno, e quindi si sperava semplicemente che le liquidazioni poi non sarebbero avvenute, quelle coatte del bail-in. Ha ribadito che la BRRD è sbagliata, cioè bisogna ritornare sull'idea di fondo che i costi del bail-in siano concentrati sugli investitori e sopra i depositanti sopra i 100.000 euro, perché ha argomentato che questa è la linea di fondo di questa Banca d'Italia di Ignazio Visco, che bisogna tornare a interventi dello Stato, e ha aggiunto che poi è molto grave che naturalmente altre nel sistema europeo delle banche centrali si oppongano al finanziamento del Fondo Comune Europeo per la tutela dei depositi, il pilastro che ancora manca all'unione bancaria. La mia obiezione è che se uno dice che la BRRD non vale, non capisco molto che forza abbia un tavolo in cui dice ai tedeschi però ci dovete mettere i soldi, perché dice: ma se tu dici che la BRRD non ti riconosci. Allora, questa è la mia critica di fondo. Abbiamo una Banca d'Italia che legge quello che sta avvenendo nel sistema bancario italiano come colpe altrui, c'è una grande autoassoluzione di fondo, e ripropone il modello degli interventi statali. Da una lettura degli interventi pre-BRRD effettuata in 20 anni, in 30 anni di interventi della Banca d'Italia, come se non avesse creato molte vittime, perché ricordiamoci quante banche utilizzate dalla Banca d'Italia con la moral suasion per assorbire e fondere a buoni fini siano andate per l'aria. La Popolare di Lodi vi dice qualcosa, vi ricorda qualcosa? Che ebbe il record di nuove fusioni e acquisizioni pilotate dalla Banca d'Italia 15 anni fa, 10 anni fa, e poi ci portò a le scalate del 2005 e così via. Allora, io non la voglio fare lunga. Io prendo atto del fatto che abbiamo una Banca d'Italia che oggi è in testa alle contestazioni delle regole europee, e questo è nella piena legittimità del suo mandato, ma è una Banca d'Italia molto diversa da quella che storicamente si è battuta perché sulle regole europee ci fosse una convergenza nel nostro paese. Noi a questo punto abbiamo un regolatore bancario che dice bisogna cambiarle le regole europee, bisogna tornare agli stati. Sapete quanto sia complicato convincere altri membri maggioritari dell'eurosistema di questa regola? Sta di fatto che questa è la posizione che il governatore Visco ha ribadito oggi. Allora, abbiamo due ospiti con i quali prendere i due aspetti della questione, quella bancaria da una parte e quella delle parole di Visco sull'economia reale e sul governo. I nostri due ospiti sono Fabio Bolognini, grazie di essere con noi. Grazie. E Alessandro Barbera della Stampa, grazie Alessandro. Buongiorno, ciao Oscar. Fabio, hai scritto un bellissimo articolo su LinkedIn Business in questi giorni, in cui hai riepilogato quelli che a tuo giudizio sono gli estremi che comprovano anche ai miei occhi la difficoltà da parte del regolatore, ma un po' di tutti, perché sulla questa posizione del regolatore c'è il consenso assoluto anche delle imprese italiane e così via, a obiettare sono solo io e altri quattro gatti, quindi c'è un vastissimo consenso su questa tesi di Visco di oggi, e tu hai detto: ecco le prove del fatto che c'è una certa difficoltà a capire che il vecchio sistema della risoluzione bancaria rispetto al nuovo della BRRD non riesce a essere interpretato bene dal regolatore e dalle forze del mercato nel nostro paese. Di chi si tratta? Oscar, prima di tutto diciamo una lieve precisazione su quello che hai detto. C'è un passaggio nel discorso di Visco di oggi che parla di comportamenti imprudenti, anche sì, a volte fraudolenti da sì, parte di amministratori, quindi c'è un po' un riconoscimento che qualcuno nel sistema non ha agito correttamente. Detto questo, io sono un osservatore, più delle volte mi limito a rendere comprensibili eventi o statistiche ai piccoli imprenditori che non hanno sempre il linguaggio e la familiarità che abbiamo noi. Ciò che osservo è che l'Italia ha fatto due scelte. La prima l'ha fatta diversi anni fa, rinunciando a creare la sua bad bank per gestire le sofferenze. Allora si poteva fare, altri paesi l'hanno fatta, Spagna e Irlanda, peraltro usando anche i denari della Comunità Europea. Ci sono rimpianti su questo, penso che si fosse convinti di poter gestire il problema delle sofferenze con maggiore serenità, e poi non è andata così. La seconda scelta, che è conseguenza della prima, è quella, una scelta di sistema, di intervenire sulle crisi bancarie e sulle sofferenze tutti insieme, coinvolgendo l'intero sistema bancario. E qui c'è una leggera divergenza, ed è coerente l'atteggiamento anche di oggi della Banca d'Italia rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria. La scelta implica che il sistema bancario e soprattutto le banche più solide si sono tassate per salvare le banche in crisi, e l'hanno fatto tre volte. La prima, a novembre, hanno immesso capitale per 3,6 miliardi nelle quattro banche ponte e nella banca delle sofferenze, che è nata dalla risoluzione di Banca Marche, Carife, Carichieti e Banca Etruria. La seconda, conferendo 3 miliardi, parlo del solo sistema bancario, al Fondo Atlante, che sono serviti per adesso per acquistare la maggioranza popolare di Vicenza e molto probabilmente quella di Veneto Banca. La terza, che è in corso di finanziare un fondo speciale all'interno del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che dovrebbe sottoscrivere capitale di altre tre casse di risparmio in crisi. In tutto le banche hanno pagato o pagheranno 7 miliardi e mezzo per tenere in piedi dei concorrenti malati o falliti e per sottrarli a una procedura di risoluzione che era stata ventilata dalla stessa BCE. Qui mi fermo, dico preciso che non si tratta di denaro pubblico, sono soldi tolti agli azionisti delle banche buone. La domanda che mi faccio è: era necessario farlo? Perché è stata fatta questa scelta? È una domanda che tu fai, e che, se dovessimo essere, per così dire, fedeli al nostro codice, che è quello di non avere idee a prescindere dai fatti, diciamo che la risposta alla tua domanda, secondo me, posso sbagliare, mi interessa sapere come la pensi, si potrebbe formulare con un esercizio che è quello di ipotizzare se il meccanismo prescelto e difeso da Spada Tratta, dalla Banca d'Italia, che anzi ci vuole poi anche aggiungere in intervento statale, perché questo poi è la richiesta vera che viene dalla relazione di oggi. Però se le risorse che tu hai ricordato, cioè quanto viene pagato dagli azionisti delle banche sane per sorreggere le banche scassate, perdonami, invece che fare recovery di quelle banche, non sia un costo più oneroso e più diluito nel tempo di quello che si realizzerebbe se invece questo meccanismo non venisse posto in essere. Cioè la mutualità a spese dei migliori o dei meno peggio, siamo sicuri in base a che cosa che abbia un maggior costo di efficienza, cioè un minor costo di risorse bruciate ai fini della crescita, della liberazione di capitale bancario per tornare a fare più impieghi? Io ricordo che a fine marzo di quest'anno mancavano ancora 21 miliardi alla fine del marzo 2015 sui dati degli impieghi alle imprese, Il totale del segno più flebile sul totale degli impieghi bancari ai privati era fatto sul versante famiglie, ma sulle imprese eravamo ancora a meno 21 miliardi rispetto alla fine del primo trimestre dell'anno precedente. La verità, posso sbagliare Fabio, ma noi questa simulazione non ce l'abbiamo e quindi abbiamo un dubbio. Sbaglio secondo te? Ma io intanto la risposta che mi sono dato io, ma credo che univocamente governo, Banca d'Italia e le stesse banche abbiano detto che questa scelta era nettamente preferibile, perché altrimenti gli italiani, e qui si riferisce agli italiani che depositano soldi nelle banche, non tanto alle imprese ma ai privati, vedendo altri fallimenti dopo quelli delle quattro banche a novembre e perdendo probabilmente a qualche altro centinaio di milioni in obbligazioni subordinate, avrebbero perso definitivamente la fiducia nel sistema bancario, e questo a danno anche delle banche che hanno buoni risultati, buone dotazioni patrimoniali. Io su questo ho qualche leggero dubbio, nel senso che io credo che gli italiani abbiano preso, gli italiani non informatissimi delle vicende bancarie, abbiano preso uno spavento a novembre, abbiano realizzato che le banche non sono tutte uguali, non c'è stato un vero e proprio deflusso di depositi, i depositi si sono però cominciati a spostare, guarda caso, verso le banche migliori. Ma cosa che quindi, però dovrebbe essere considerata un bene, cioè io penso che se avessimo... Nel lungo periodo lo è. Certo che lo è, ma forse abbiamo utilizzato male quei due anni e mezzo da metà del 2013, sapendo che arrivava la direttiva, per non informare i clienti, questo è quello che penso. Nel frattempo ci sono 210.000 soci della Veneto e della Vicenza che hanno visto sommati tra... perdite e azzeramento del valore delle quote, la bellezza di più di 11 miliardi di euro, cioè stiamo parlando comunque di una roba su cui queste cifre non ci sono state nella relazione del governatore, è considerata colpa altrui, non lo so. Io comunque ringrazio Fabio Bolognini che ci richiama, per così dire, al rispetto di quello che ha detto il governatore. Io resto con la bocca molto amara, ma adesso, dopo il minuto di informazione sul traffico, andiamo alla parte che riguarda il governo e la BCE con Alessandro Barbera. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, ci stiamo interrogando sulle considerazioni annuali svolte stamane dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Abbiamo visto un po', insomma, critiche e un po' di riflessioni con Fabio Bolognini sulla parte bancaria, che per me è un'autoassoluzione e che però vede convergenti le forze dell'economia italiana nel dire che sono gli altri che vogliono regole, ce l'hanno imposto, regole non adatte al nostro solidissimo, peraltro, come è stato ripetuto fino a novembre, sistema bancario italiano. Ma andiamo anche alla parte che riguarda invece la BCE, le politiche della BCE e le politiche economiche condotte dal governo. Alessandro, tu hai scritto che, commentando immediatamente per il sito della Stampa, quindi per chi vuole può vedere lì l'articolo più lungo, il commento scritto a caldo da Alessandro Barbera, che su questo in realtà la Banca d'Italia promuove le politiche della BCE e sostiene il governo, no? Muove le politiche della BCE perché ovviamente l'andamento dell'inflazione è tale per il quale non ci sono alternative, e questo diciamo era atteso, non ci si può immaginare che una membro del sistema europeo delle banche centrali dica una cosa diversa, mentre fa un po' impressione l'atteggiamento di sostegno un po' passivo che la Banca d'Italia dà nei confronti del lavoro del governo, cioè tende a sottolineare le cose buone fatte finora, gli 80 euro che hanno aumentato la dinamica dei consumi, il fatto che c'è un miglioramento dell'occupazione, anche se dice la disoccupazione resta molto alta, ma l'occupazione dei giovani ha iniziato a scendere la prima volta dal 2007, c'è addirittura un segnale di miglioramento dell'economia nel mezzogiorno, però mancano gli elementi di critica più forti, quelli che ci si aspetterebbe dalla Banca d'Italia. Non c'è alcun passaggio sulla produttività delle imprese, esatto, che è bassissima e dipende dal fatto che il governo non ha ancora fatto una cosa che ha promesso già da tempo, cioè una riforma dei contratti di secondo livello. Non c'è un accenno polemico al fatto che il debito non scenda, non c'è la parola privatizzazione in questa relazione. C'è una, come dire, considerazione legittima e del tutto comprensibile sul fatto che il governo ha fatto quel che ha potuto, si ammette di fatto che la grandissima parte della crescita che il governo ha ottenuto quest'anno la si deve alle politiche della Banca Centrale Europea, però ecco, è come se non si volesse troppo disturbare, se posso permettermi la battuta, disturbare il manovratore. È vero, il governo ha fatto delle cose certamente positive, i fatti che la Banca d'Italia mette in fila sono corretti, però diciamo in passato si sono viste relazioni ben più critiche di questa. È come se ci fosse poi l'impressione, alle presentazioni c'è proprio una mezza riga, insomma è così, ma è più che altro di prammatica, come devo dire, ma detto questo è come ci fosse l'impressione, visto che ribadisce, cioè noi a novembre abbiamo avuto una Banca d'Italia che in Parlamento ha implicitamente accusato il governo di non averla sostenuta nella battaglia per la protrazione dei termini di entrata in vigore della BRRD, cioè della risoluzione comune europea delle banche, e di non essersi battuta per l'altro obiettivo che continua a difendere tecnicamente la Banca d'Italia, cioè che essa doveva applicarsi al capitale e ai crediti in divenire del sistema bancario, le obbligazioni successivamente emesse dopo il gennaio 2016, non al monte di quelle già emesse e circolanti. E quindi io ho un po' come l'impressione, visto che continua a rilanciare che questo deve essere l'impegno, che a quel punto il governo deve fare proprio in Europa, non gli voglio rompere un po' troppo le scatole sui temi tradizionali. Mi sbaglio, secondo te? Ma è possibile, è una lettura possibile. In effetti, peraltro ad un certo punto, non so se lo hai notato, in fondo alle considerazioni di disco c'è un passaggio un po' ambiguo, oscuro, che sembra lasciare intendere la volontà della Banca d'Italia di proseguire su questa richiesta in sede europea. Dice si potranno proporre, usa questo termine strano, questa, non si capisce chi parli a proposito di cosa, si potranno proporre revisioni per rendere gli interventi di risoluzione delle crisi più efficaci e meno soggetti al rischio di produrre instabilità. Si potranno, chi è la Banca d'Italia, il governo, sembra quasi appunto che ci sia il tentativo di insistere su questo punto, laddove però purtroppo, su questo secondo me hai perfettamente ragione, la contropartita non c'è, cioè si chiede all'Europa e ai paesi nordici, alla Germania in modo particolare, di concedere qualcosa alle ragioni d'Italia, peraltro a tempo ampiamente scaduto, però non si offre un'adeguata contropartita. L'Italia sta fieramente dicendo no ad esempio alla richiesta di porre un limite al possesso di titoli pubblici nel capitale delle banche, insomma sembra una battaglia un po', come dire, più un tentativo di mantenere la posizione, di difendere ciò che si è detto finora, più che la reale convinzione che questa cosa possa produrre gli effetti. Peraltro diciamo c'è un dettaglio che io aggiungerei a tutto quello che avete detto finora. Questi 7 miliardi e mezzo che citava Bolognini, sono 7 miliardi e mezzo che vengono pagati dagli azionisti, ma non possiamo non escludere che questo costo vada anche a carico di chi ha un conto in queste banche. Questa è, chiamiamola col loro nome, è un aumento dei costi possibile. È così. nei confronti di questi correntisti. Quindi è evidente che, intendiamoci, tu ricordavi ad esempio quanto hanno perso gli azionisti di Veneto Banca e di Vicenza in questi mesi. Come dire, far tornare i conti, tenere in piedi un sistema che scopre tardivamente le sue fragilità quando non si può più intervenire, non è facile. Il governo, peraltro, devo dire, l'ha fatto con una mano, con mano piuttosto ferma, e non si può dire che non l'abbia fatto con in maniera efficace. Dopodiché però bisogna essere chiari su un punto: tutte le opinioni sono legittime, ecco, ma una cosa non possiamo far finta che non sia vera, cioè che i costi che lo Stato può sostenere per pagare il costo di questi fallimenti è comunque a carico di qualcuno, esatto. O è a carico dei contribuenti nel loro insieme, o è a carico degli azionisti, o indirettamente di chi ha un conto in tutte le banche che contribuiscono al salvataggio delle altre banche. Esatto, perché l'idea invece è che se sono ci rimette lo Stato, come continua a dirci la Banca d'Italia, è come se non li pagasse nessuno. Allora, questi, anzi, oggi ci ho detto no, ci si guadagna se è lo Stato. Va bene. Allora, come vedete, ci sono molte criticità. Per carità, io sono in minoranza, quindi comunque sentite come la pensa Sebastiano a Focus Economia. Appuntamento domani mattina alle 8:15 con me, Alessandro Minatti, Antenna 2.